particolare, vale a dire autogestita dai lavoratori che occupano il giornale già dal 28 di dicembre, quindi un'occupazione che dura da più di 2 mesi. Abbiamo scelto, taffandoci ovviamente, di produrre un giornale che si chiama Occupai Liberazione, quindi che non è Liberazione ma è il giornale dell'occupazione della testata, fatto dai giornalisti e dai poligrafici, un giornale speciale che racconta un po' quello che sta succedendo, quello che è successo a Liberazione, e racconta una serie di vicende a nostro giudizio esemplari della situazione sociale, politica italiana, della realtà dell'auto-organizzazione nei luoghi di lavoro, nel senso parliamo della TAV, parliamo dell'OMSA, parliamo degli operai di Melfi, della FIOM non reintegrati in fabbrica, malgrado le sentenze della magistratura. Parliamo di un giornale greco, un giornale autogestito dai lavoratori dopo che l'editore aveva scelto di chiuderlo. Parliamo dei dipendenti della Wagon Lì che da mesi stanno sopra un palazzo sulla via Prenestina per chiedere appunto il reintegro, per chiedere la continuazione della loro esperienza lavorativa. Parliamo di tante altre esperienze, come Luce e Siesta, una occupazione di donne, un'occupazione di genere qui della città di Roma. Quindi abbiamo fatto un giornale che parlasse di noi, di Occupai Liberazione, ma che soprattutto parlasse di quello che Liberazione ha raccontato in questi anni, vale a dire uno spaccato del mondo, delle realtà sociali, dell'auto-organizzazione sociale, del modo in cui le persone hanno scelto di mettersi in gioco per attraversare la crisi in forme solidali e in forme di lotta. E l'abbiamo portato qui, io sono dentro la manifestazione all'altezza di Santa Maria Maggiore, dove abbiamo fatto un piccolo presidio con manifesti, striscioni, dove dalle 9 di mattina stiamo diffondendo questo giornale autoprodotto che abbiamo, ed è importante sottolinearlo, stampato nello stesso numero di copie, oltre 3.000, che Liberazione vendeva fino al mese di fino al 31 di dicembre, quando il nostro editore, che è Rifondazione Comunista, ha deciso di sospendere le pubblicazioni. Questo è un po' il senso di una battaglia che poi è per noi la continuazione di una battaglia per la difesa dei nostri posti di lavoro e per la ripresa dell'esperienza del quotidiano che appunto l'editore ha deciso per il momento di sospendere. Senti, fra i vari contributi presenti, uno forse per quel che è il tema in questione è più interessante degli altri, ed è l'apporto dato dal quotidiano greco Eleftherotypia, credo sia la pronuncia giusta, che è un quotidiano, come ricordavi tu, che a un certo punto è stato preso in mano direttamente dai propri giornalisti e giornaliste, dai propri poligrafici, e adesso comunque è riuscito a tornare in qualche modo in edicola, al di là della presa di posizione dell'editore. Ecco, un'esperienza che forse può essere in qualche modo di esempio anche per casa nostra e non solo per Liberazione. Ma certo, diciamo che le cose a cui noi, le esperienze, le vicende a cui noi abbiamo guardato in questi mesi sono quelle in cui i lavoratori hanno scelto di mettersi in gioco e di prendere in mano in qualche modo il loro destino. Nel caso di questo giornale greco, è un giornale importante della sinistra, diciamo indipendente, una sorta di repubblica, che l'editore ha deciso a un certo punto di ritirare dalle edicole. Noi siamo un giornale di partito, ma abbiamo sempre creduto che al di là, diciamo, dello specifico di essere vincolati in qualche modo all'editore, partito politico, cioè Rifondazione, quel giornale, ed è la storia di molti di noi, rappresentasse una possibilità di aprire delle porte, di aprire delle finestre, raccontare una sinistra assolutamente plurale e diffusa. Certo, l'ipotesi dell'autogestione che noi abbiamo praticato attraverso l'occupazione di questi mesi è una proposta, è un'idea. È chiaro che noi siamo ancora in una condizione in qualche modo arretrata, nel senso che in Italia, con il finanziamento pubblico all'editoria per i giornali politici e di idee, c'è la possibilità di fare dei giornali anche senza la forma esplicita dell'autogestione. E noi stiamo ancora percorrendo con il nostro editore l'ipotesi di riprendere a fare questo giornale nelle forme tradizionali, cioè grazie al finanziamento pubblico, che è stato tra l'altro recentemente ripristinato, e il motivo delle sospensioni delle pubblicazioni al 31 dicembre era proprio quello che c'era stata una riduzione nei fondi pubblici. È chiaro che l'occupazione di Liberazione è attraversata anche dalla riflessione su come immaginare un futuro sia per Liberazione che per altre testate. La crisi, diciamo, dei nostri compagni amici del Manifesto diciamo, ha accompagnato la vicenda di Liberazione in questi mesi, anche su come immaginare un futuro. Quindi è chiaro che un ragionamento, abbiamo parlato con questi colleghi, con questi compagni greci, per farci raccontare come loro hanno costruito questa idea di un giornale che continuasse a vivere anche in mancanza di un editore, perché insomma, rispetto alla questione dei giornali della sinistra, c'è un problema sicuramente di risorse, c'è un problema di soldi, di finanziamenti pubblici, c'è anche un problema di quello che poi si fa quando la sinistra, diciamo, si trasforma in imprenditore. In questo caso c'è un partito politico che beneficia dei fondi pubblici, ma che a un certo punto ha deciso di non fare più un giornale, un po' perché forse questo giornale gli costava troppo, ma soprattutto perché questo giornale rappresentava anche un elemento di contraddizione, di dialettica interna, nel senso sì giornale di partito, ma fatto da persone libere che come tale, come dire, esprimono anche posizioni, soggettività e culture diverse. È un quesito che riguarda un po' tutti: che cosa vuol dire fare un giornale a sinistra, come lo si può fare? E da questo punto di vista la sollecitazione che ci arriva dalla Grecia è molto stimolante attraverso il dibattito di questi mesi in Italia, proprio per immaginare come si possa costruire una informazione diversa. E quindi sì, è sicuramente parte della nostra riflessione, anche se la condizione di Liberazione e la condizione italiana più in generale è al momento ancora diversa. Senti Guido, per concludere, proprio a proposito di questo, le prospettive per le lavoratrici e i lavoratori di Liberazione, quindi chi lavora nella redazione, ma anche i poligrafici, insomma tutto un po' la forza lavoro, o da qui ai prossimi mesi, quale può essere secondo te, secondo voi, e soprattutto che prospettive avete? Certo. Diciamo che noi siamo intentati intanto a mantenere l'occupazione fino a che la vicenda della trattativa sindacale non sarà risolta. Al momento le posizioni sono la posizione dell'editore, una richiesta di cassa integrazione a zero ore che anticipa poi l'espulsione di metà dei lavoratori, metà della redazione giornalistica e metà dei lavoratori poligrafici. Noi abbiamo respinto assolutamente questa impostazione, pensiamo che si possa ricominciare a fare il giornale, magari momentaneamente online e più avanti anche con il cartaceo. Pensiamo che gli ammortizzatori sociali, peraltro pagati dalla collettività, diciamo, possano consentire di ridurre i costi produttivi e attraversare questo anno di crisi, diciamo, in cui il giornale dovrà arrivare anche a quelle che sono gli appuntamenti elettorali, che ovviamente per un partito editore hanno una qualche rilevanza. Pensiamo che ci siano già le condizioni per far vivere Liberazione. La nostra lotta è partita da questo e continua in questa direzione. Speriamo che anche oggi, anche di fronte alla nostra determinazione, alla nostra presenza qui, l'editore di Fondazione Comunista raccolga in qualche modo questo invito, raccolga l'invito che viene da moltissime compagne e compagni di Rifondazione, ma anche non di Rifondazione, insomma, come in qualche modo testimonia anche lo spazio che ci ha offerto fin qui Radio Onda Rossa, per riprendere a fare questo giornale che pensiamo sia un bene comune, al di là di chi lo edita, della sinistra italiana. Questo è il nostro punto al momento, non abbiamo novità, aspettiamo una risposta da parte dell'editore, che è fermo appunto su una richiesta unilaterale in qualche modo di cominciare a parlare di esuberi, prima con la cassa integrazione e poi con l'uscita vera e propria dei lavoratori.